Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. C'era una volta un bell'algoritmo che si muoveva di qua e di là, gironzolava sul web col ritmo di chi sa già quello che farà. Andava matto per Cipro e Malta, dove si fanno le società, i trust di diritto turco, o se ti piace una bella spa. L'algoritmo. Eh sì, l'algoritmo, che è la nuova hit del 2020 dei Chapter 11. Guarda, infatti sono stupefatta del fatto che tu non sia andato a Sanremo. È ancora per il terzo anno consecutivo che me lo chiedo, che nonostante la discografia ormai consolidata tua e del tuo gruppo, nessuno vi candidi per la prestigiosa kermesse sanremese. Ma noi puntiamo direttamente al contest europeo a questo Ottimo. Punto. Vediamo se ci recuperano, se ci recuperano lì. No, perché abbiamo scelto questa canzone dei Chapter 11, questa è fantastica, appunto intitolata L'algoritmo? Perché dobbiamo parlare di Airbnb. Sì. Allora, la piattaforma, lo sapete, è quella che ha rivoluzionato l'affitto degli alloggi per le vacanze e che rappresenta una scelta sempre più praticata e frequente per i viaggiatori di tutto il mondo. Allora, la piattaforma Airbnb naturalmente ha un problema, fa veicolare la domanda e l'offerta appunto tra persone che cercano un alloggio e gli alloggi, ma le persone che spesso frequentano questi alloggi non sono proprio del tutto affidabili. E allora cosa ha fatto Airbnb? Per sì. garantire che l'immobile di cui circola l'offerta, di cui fa circolare l'offerta, non subisca danni da parte di affittuari psicologicamente instabili, ha acquisito Truly, una startup con una nuova tecnologia artificiale, per l'appunto un algoritmo, per il controllo della sanità mentale degli inquilini. Degli inquilini. Ma è una cosa vera questa qua che stiamo raccontando? Perché guarda, sono se l'ha trovata Marco Lombardo, io penso che abbia fatto tutte le verifiche del caso, però pare che sia una sì. notizia riportata sul sito technology.org. No, e tra l'altro appunto quello che va cercando questo algoritmo in realtà cosa fa? Cioè inputa una serie di operazioni di ricerca proprio sul profilo dell'utente. Siccome oramai mettiamo un po' di tutto in rete, delle nostre abitudini, i siti che frequentiamo, le cose che cerchiamo, quello che acquistiamo, eccetera, è possibile ovviamente tracciare una mappa anche della nostra così stabilità emotiva, in un certo senso, almeno di quello che si riesce a ricavare. Ed è l'applicazione che vediamo appunto in questo caso per la piattaforma di Airbnb. Non lo so, voi a casa tutto bene, viene da dire, perché sì, io sono un pochino turbato, ma è chiaro perché essendo diversamente giovane ancora queste notizie un pochino mi straniano. No, tra l'altro sto continuando nella lettura della notizia. L'algoritmo vorrebbe determinare l'affidabilità appunto delle persone che cercano casa su questa piattaforma ed evitare complesse situazioni assicurative, perché poi il fine di tutto questo è sempre economico, come in alcuni precedenti casi di affittuari che hanno danneggiato immobili e appartamenti che hanno appunto ospitato. E vabbè, e questa mattina dovevamo sapere pure questa, non speriamo, si finisce mai di imparare. Speriamo che l'algoritmo non mi prenda mai di mira, questo algoritmo qua, perché non vorrei fare delle scoperte così inquietanti ma anche un po' imbarazzanti sul mio stato di salute mentale. Allora, è una puntata molto ricca, fra un po' dovremmo fare anche dei saluti e adesso vi spieghiamo anche a perché e per quale ragione, ma prima di tutto, qual è il tema di cui parleremo quest'oggi? Perché ne abbiamo due, ma quale sarà quello portante? Allora, quello portante che sarà nella seconda parte di questa trasmissione sarà il bonus facciate, cioè questo maxi sconto che il fisco ci ha promesso da quest'anno se facciamo ristrutturare, mettere a posto la facciata del palazzo. Va tutto bene, siamo tutti molto contenti di questo, ma ohimè mancano le istruzioni. Se avete letto il Sole 24 Ore di ieri, c'era una intera pagina realizzata da Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati che spiegavano come comportarsi in questo momento, anche perché molti condomini stanno decidendo adesso se fare o non fare questo tipo di lavori e quindi c'è una certa così richiesta di informazioni. Peraltro pare che in settimana arrivino le prime istruzioni, quindi questa è un'anteprima davvero mondiale. Avremo ospite proprio Cristiano Dell'Oste tra pochissimo, che ci ragguaglierà sul punto. Ma avremo anche il presidente dell'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, perché qua la rogna più pesante è proprio in questi contesti, visto che quando si devono intraprendere questi lavori che riguardano facciate di edifici condominiali, si deve, come sapete, lo abbiamo già detto ieri, passare per riunioni assembleari, delibere anche piuttosto complicate per quello che riguarda appunto millesimi di proprietà, e quindi anche gli amministratori di condominio stanno cercando di capire quali passi devono intraprendere proprio per avviare questi lavori, appaltarli più rapidamente possibile. Un altro tema che affronteremo, e oggi inauguriamo una nuova rubrica a Due di Denari, in realtà è la consueta Dillo a Due di Denari, che farà periodicamente un focus specifico sulle persone in difficoltà finanziaria, su quelle che sono state costrette loro malgrado ad indebitarsi un po' troppo. Oggi viene loro incontro il Fondo di Prevenzione al Sovraindebitamento, il Fondo di Prevenzione del Sovraindebitamento e dell'Usura, gestito dall'Associazione dei Consumatori Adiconsum per conto del Ministero dell'Economia, quindi attraverso storie concrete che vi racconteremo anche come è possibile attraverso questa modalità uscire da questi tunnel. E ci fa molto piacere inaugurare questa rubrica, è partita proprio dalle segnalazioni di alcuni di voi, di alcuni ascoltatori, che segnalavano la difficoltà per far fronte magari a dei debiti che si sono contratti, che si sono accesi in un momento anche di relativa tranquillità economica, ma che poi si sono rivelati troppo onerosi. Prima adesso del giornale però... Radio del Risparmio, allora io agevolo e adesso chiedo aiuto a Walter e Dina, inquadrateci da questa telecamera qui di fronte a me, perché voglio mostrare a tutti gli ascoltatori la nostra splendida targa che abbiamo ricevuto ieri sera in plexiglass, dove ci sono bene in evidenza le nostre facce. Esatto, è una targa, come si può dire, commemorativa, anche se siamo ancora vivi, possiamo confermarvelo. È una targa commemorativa che ci ha fatto molto piacere, abbiamo ricevuto dagli amici della Banca Popolare di San Felice sul Panaro, dove siamo stati ospiti per presentare, graditi per noi, graditi appunto ospiti, ma speriamo anche per loro, per presentare il nostro libro Risparmiare è facile se sai come fare, e soprattutto se presenti il nostro libro, se ascolti la presentazione del nostro libro. Ci hanno voluto omaggiare di questa simpaticissima targa, molto bella devo dire, ci ha fatto molto piacere, e allora li ringraziamo. Tra l'altro, nel ringraziarli però facciamo anche un pochino così di denuncia e di servizio, perché specialmente Deborah è rimasta colpita dal fatto che, pur a una certa distanza dal sisma, cioè andiamo per gli 8 anni a questo punto, sì, 2012, ancora siamo, ci sono, l'abbiamo visto lì a San Felice sul Panaro, diverse strutture pubbliche o magari strutture anche risalenti ad altri secoli, quindi più bisognose di restauri, però ancora in manutenzione pesante. Insomma, ci sono ancora i cantieri in Emilia Romagna. È una città veramente, un paesino veramente tutto incerottato, mi verrebbe da dire, e questo ieri sera, pur avendo fatto una visita molto, molto breve e molto veloce, è una circostanza che ci ha colpito molto, che denunciamo pubblicamente, salutando anche tutti gli abitanti appunto di San Felice, che ieri ci hanno accolto con grande affetto. Ottimo. Abbiamo detto tutto, ci mancano i numeri di telefono. 800 24 00 24 per intervenire a scelta sull'argomento che preferite: bonus facciate o sovraindebitamento. 349 238 6666 per i vostri messaggi, SMS o WhatsApp. Su WhatsApp, come sapete, li potete mandare anche vocali. Storie di sovraindebitamento, se volete segnalarcele, raccontarcele, potete inviarle per la nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it, e tutto ciò premesso andiamo con il giornale radio del Risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Notizia fresca fresca anche questa, che riguarda i mutui, e l'ultima rilevazione della Banca d'Italia, secondo la quale a dicembre i tassi di interesse sui mutui alle famiglie, visto che fra un po' parleremo di sovraindebitamento e la rata del mutuo pesano un poco nel bilancio appunto delle famiglie italiane, i tassi di interesse sui mutui praticati alle famiglie sono lievemente saliti all'1,78% dall'1,76% di novembre, è quanto appunto rileva l'Istituto di Via Nazionale, secondo cui quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 7,6%, quindi questi sono i tassi sui prestiti. Questo ci pareva appunto interessante da segnalare. Sono comunque condizioni ancora molto vantaggiose, storicamente i tassi sono estremamente bassi, ma abbiamo visto questo micro segnale in dicembre. Adesso sarà interessante monitorare anche come si è aperto invece l'anno per chi è pronto a sottoscrivere un finanziamento che dura per un sacco di anni. Spesso è un impegno appunto importante, corona sicuramente un nostro sogno, ma ci ingabbia non poco anche per diversi decenni, come sappiamo bene io e Mauro, perché sì, anche noi apparteniamo alla felice famiglia dei mutuatari, di coloro che hanno acceso un mutuo, che si dice accendere forse perché appunto poi ti devi scaldare anche un pochino per farvi fronte. No, e volevo dire, i tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,37%. Questo era un ultimo dato che sicuramente, essendo dato medio, troverà subito anche qualche precisazione da parte degli ascoltatori, che diranno no, veramente a me applicano ben di più dello 0,37%. Certo. Però questo è il dato rilevato da Banca d'Italia. Allora, Google avrebbe rimosso 24 applicazioni della società, questa la leggiamo insieme, quindi speriamo di spiegarla tutta correttamente, della società cinese Shenzhen Ok, dopo la pubblicazione di un rapporto che accusava questa società di utilizzare varie pratiche fraudolente. Queste applicazioni, infatti, che accumulano circa 382 milioni di download, chiedono all'utente che si imbatte in questi siti appunto un gran numero di autorizzazioni pericolose. Noi sappiamo bene quanto siamo facili nell'accettare tutte le condizioni, pur magari di andare così a leggere quello che scrive un sito, se questo ci interessa assolutamente. Cose che potrebbero appunto mettere a rischio i dati privati, lo hanno avvertito naturalmente gli esperti che hanno intercettato questo fenomeno. Quindi una volta installate, queste applicazioni possono comunicare con un server esterno controllato dai loro sviluppatori. Il consiglio per gli utenti che hanno già installato una delle applicazioni di queste 24, che però Google ha rimosso, se lo avete fatto già prima, devono disinstallarle molto rapidamente, lo devono fare in maniera appunto manuale. C'è sul sito il salvagente tutto l'elenco delle 24 app menzionate nel rapporto, magari vi conviene andare a dare un'occhiata nel caso in cui vi sia capitato appunto di scaricare qualcosa appunto da queste applicazioni. Adesso metteremo anche naturalmente sul Twitter, come nostra abitudine, l'indirizzo esatto dal sito del salvagente, dove trovate questa indicazione con l'elenco delle varie applicazioni che sarebbe meglio non utilizzare, perché appunto sospettate di intrufolarsi un po' troppo nella vostra, nella nostra privacy. Spesa animal free, prodotti vegani o cruelty free non sono esattamente la stessa cosa, ma li mettiamo insieme in questa notizia che è comparsa ieri peraltro su Repubblica. Sono tutti prodotti non testati sugli animali e sono prodotti che stanno effettivamente riscuotendo un successo crescente. Allora, secondo dati di Innova Marketing Sites, questo tipo di prodotti con origine vegetale è aumentato del 64% a livello globale in 5 anni e mostra il fascino di un settore che è in crescita costante. La rivoluzione, questo tipo di rivoluzione, quindi no al test sugli animali, attenzioni fino ad arrivare appunto alla scelta vegana, tocca soprattutto naturalmente il settore alimentare, però come sappiamo anche i cosmetici fanno spesso leva su questo argomento. Ora c'è un aspetto un po' delicato che cerco di dire con la massima asetticità, perché sono anche stati realizzati dei profilattici vegani, nel senso che immagino cos'è, non Marco, siano... Sei tu che ce l'hai trovata la notizia, eh? No, anzi, hai proprio sottolineato questo aspetto, ecco. No, adesso non vorrei finire diretto nella zanzara, quindi mi fermerei qui, non riesco a capire bene quale sia il legame con il vegano o il non testato soprattutto sugli animali. Con che materiale è stato fatto, cioè, esatto, quindi il punto è che è stato fatto con determinati materiali o è il test del profilattico che viene fatto in un determinato determinato modo. Guarda, non sono stato informato, però siccome la cosa proviene dalla BBC, che mi sembra una fonte autorevolissima, andremo a cercare sul sito della BBC se ci danno qualche informazione in più. Magari la diamo in un altro orario, Deborah, ti spiacerebbe? Guarda, sto facendo una sudata con questa notizia. Volevo solo concludere dicendo che a tutti gli ascoltatori, se siete preoccupati per il coronavirus, sappiate che ieri è intervenuto il presidente Trump sulla vicenda ha assicurato che grazie al caldo il virus andrà via entro aprile. E d'altronde quest'anno si vota negli Stati Uniti e quindi tutte le promesse devono essere mantenute. Se lui l'ha detto, evidentemente così succederà. Adesso io vorrei così molto sommessamente dire che magari il presidente Trump non mi sembra l'autorità maggiore presente sul pianeta in non grado è un di virologo dare... di fama mondiale. No, non mi pare proprio, almeno non lo sapevo. Mi pare facesse l'immobiliarista prima di fare il politico, però potrei sbagliarmi. Torniamo a fare i seri e, come vi abbiamo anticipato prima, oggi inauguriamo una nuova rubrica. Dillo a due di denari. Mi chiamo Giuseppe e voglio raccontarvi la mia storia. Nel 2012 il datore di lavoro di mia moglie le impone di aprire la partita IVA, pena il licenziamento. Nonostante questo, nel 2015 mia moglie viene licenziata. Da lì cominciano tutti i nostri problemi economico-finanziari. Ci troviamo costretti a ristrutturare e riqualificare la nostra abitazione per adeguare gli ormai obsoleti impianti alle nuove norme e pensiamo di pagare i lavori facendo affidamento sul TFR che dovevo riscuotere dal mio datore di lavoro, avendo nel frattempo maturato i requisiti per andare in pensione. Non immaginavamo però che per incassare il TFR ci sarebbero voluti ben 48 mesi a partire dalla data del pensionamento. Mi vedo quindi costretto a chiedere la cessione del quinto della pensione. Nel frattempo la mia banca decide in maniera unilaterale di ridurmi il fido da 18.000 a 5.000 euro e mi trovo costretto a chiedere un prestito di 10.000 euro, attualmente in corso. A tutto questo ci sono da aggiungere le elevate spese mediche e farmaceutiche sostenute in questi ultimi anni, per mia moglie e per me, riconosciuto invalido civile al 75%. Ma anche per mio suocero, la cui situazione di salute richiede continue e costose cure. Non potendo contare sull'aiuto dei nostri parenti, che non dispongono di redditi e di entrate sufficienti, abbiamo valutato l'idea di vendere parte degli immobili di proprietà, ma l'operazione non ha dato al momento i risultati sperati e versiamo ancora in grandi difficoltà, avendo ancora un debito di 45.000 euro. Non abbiamo più accesso al credito legale né da parte delle banche né dagli intermediari finanziari, ma ci serve una mano per uscire dalla crisi e per poter ripartire e recuperare un po' di serenità. E buongiorno all'avvocato Francesco Iorio, responsabile prevenzione usura e sovraindebitamento di Adiconsum. Benvenuto e grazie per aver avuto l'idea di suggerirci di iniziare questo percorso insieme, avvocato. Grazie a voi intanto per averci recepito la vostra trasmissione, è molto importante far conoscere l'esistenza di questo strumento normativo che pochi conoscono. Senta, intanto le volevo chiedere, avevamo questa curiosità con Mauro, com'è finita la storia di Giuseppe? È finita che Mauro si è rivolto a noi, noi abbiamo consigliato a Mauro di presentare domanda di accesso al fondo di prevenzione. No, ma sì, Giuseppe è l'ascoltatore che ci ha scritto, non so se magari... Pardon, mi scusi. No, perché parlavo, io e Mauro avevamo la curiosità, nel senso che Mauro è il conduttore. Allora, Giuseppe si è rivolto a noi e gli abbiamo consigliato di presentare domanda di accesso al fondo e abbiamo visto che c'erano i requisiti per potergli dare una mano e abbiamo garantito un finanziamento a Mauro di 45.000 euro. Grazie, se vuole darmi 45.000 euro, però Mauro è avvocato, sono sempre io. Comunque le passo subito l'IBAN, naturalmente potete trasferirmeli. No, ecco, però al di là, scusi, io la butto un po' a ridere, prego, ma la cosa è serissima. Un finanziamento di 45.000 euro che è una delle modalità appunto di intervento del fondo di prevenzione sovraindebitamento e dell'usura. Cioè, ma come si arriva ad ottenere questo che poi è di fatto un prestito, no? Immagino che viene fatto per consentire a questa persona, Giuseppe in questo caso, di passare questo momento critico, di sorpassare questo momento critico. Come si arriva a questo? Guardi, noi è da 20 anni che gestiamo dei fondi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non siamo gli unici gestori ma siamo tra i gestori. all'epoca attraverso la legge 108 del 96, la legge sull'usura, in particolare con l'ex articolo 15, il Ministero stanziò dei fondi destinati a, in questo caso, a soggetti riconosciuti attraverso l'iscrizione al albo ministeriale, a poter agevolare, per questi fondi servono agevolare l'accesso al credito legale a soggetti non bancabili, generalmente a tutti quei soggetti che, pur avendo merito creditizio in relazione alla loro capacità di rimborso, non possono accedere al credito legale a causa di segnalazioni o referenze negative censite presso i sistemi di informazione creditizia, il più conosciuto è la CRIF, no? Sì. Quindi un soggetto o un nucleo familiare che non può consolidare i propri debiti perché tutte le porte vengono chiuse dalle finanziarie delle banche a causa di queste segnalazioni, ma possono dimostrare di poter rientrare il finanziamento in quanto ci sono i redditi per poterlo rientrare e hanno bisogno di un garante, ecco qua, è molto semplice, il garante anziché essere un amico di famiglia o un parente, che in questi casi non c'è mai, può essere lo Stato. Sì. Quindi attraverso questi fondi lo Stato e attraverso convenzioni sottoscritte con istituti di credito importanti andiamo a permettere a questi soggetti che altrimenti non potrebbero rimettere a posto il proprio bilancio, risolvere tanti altri problemi collegati al bilancio e non solo, attraverso questa nostra disponibilità gli permettiamo di accedere al credito legale. Esatto, no, quello che va specificato, avvocato, per chi non avesse compreso fino in fondo il messaggio, prego, è che per esempio nel caso di Giuseppe questi 45.000 euro erogati tramite appunto la garanzia del Ministero dell'Economia non è un prestito nuovo, ma è un prestito che chiude tutti quelli in corso, c'è una sorta di operazione di consolidamento di tutte le situazioni pendenti della persona richiedente e di conseguenza magari questi 45.000 euro Giuseppe sarà in grado di pagarli in un tempo più lungo con delle rate più sostenibili che lo facciano sopravvivere appunto serenamente in termini di condizione economica familiare. Le confermo assolutamente quello che lei sta dicendo, si parte molto spesso da situazioni di bilancio in rosso, per semplificare, allorquando la somma degli impegni in essere in quel momento supera di gran lunga molto spesso anche i redditi complessivi percepiti e prodotti al nucleo familiare. Il compito della nostra associazione è quello di verificare attraverso la simulazione di un finanziamento acceso a condizioni particolarmente agevolate, le faccio presente che al momento le convenzioni che abbiamo sottoscritto prevedono l'applicazione di un tasso intorno al 2% fisso con un rientro fino a 50.000 euro in 10 anni massimo. Nel caso specifico del signor Giuseppe ci troviamo dinanzi a una serie di impegni mensili rateali importantissimi che attraverso questo consolidamento si sono ridotti in un unico impegno, certo, da un importo, con un importo sostenibile intorno ai 450 euro. Infatti. E allora, questo è un po' la svolta, il senso del fondo. Naturalmente il fondo, chi si vuole mettere in contatto ha diverse possibilità, può scrivere una lettera da Diconsum, largo Alessandro Vessella 31 00199 Roma. È corretto? Lei mi interrompa, avvocato, mi raccomando. No, va bene, è giusto il numero, l'indirizzo che lei ha fornito, ci sono anche due numeri di telefono dedicati. Esattamente. Che rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Se vuole, naturalmente posso... il sito è adiconsum.it. Uno dei numeri di telefono è 06 44 17 02 38. E l'altro è il 34 finale anziché 38, ce ne sono due. Quindi, abbiamo aumentato 06 44 17 02 34, e poi si può inviare, perfetto, una mail a prevenzioneusura@diconsum.it. Sì. Nel caso, velocemente, avvocato, poi magari ci ritorniamo, come prego, abbiamo dato prima appunto la periodicità naturalmente fissa a questa rubrica, una persona che ha bisogno vi invia una domanda, vi rappresenta la sua situazione e i documenti allegati naturalmente che la confermano, che la certificano, entro quanto tempo riuscite a dare una risposta? Allora guardi, ci sono due fasi. La prima fase, noi entro una quindicina di giorni massimo diamo la risposta in merito alla nostra disponibilità a garantire, perché se non c'è il garante non potrà esserci il finanziamento. A quel punto il fascicolo viene girato per posta elettronica, quindi per accelerare i tempi, è tutto informatizzato oramai, una delle banche convenzionate che entro una ventina di giorni lavorativi va poi ad erogare il finanziamento garantito. Consideri che noi molto spesso consigliamo poi ai beneficiari delle garanzie di utilizzare la comunicazione ufficiale che noi andiamo a inoltrare per mettere a disposizione dei creditori anche per prendere tempo, allorquando magari sono presenti delle trattative che anche spesso facciamo direttamente noi per una riduzione del debito a saldo e stralcio. Perché il nostro compito è anche quello di andare poi a scremare il debito facendo delle proposte transattive ai creditori. Certo, grazie avvocato, noi ci fermiamo qui, ma come abbiamo grazie spiegato questa è una rubrica, quindi tornerà più volte nel corso di Due di Denari. Ringraziamo Francesco Iorio, responsabile prevenzione usura e sovraindebitamento per Adiconsum. www.adiconsum.it, su Twitter trovate anche l'indicazione esatta per raggiungere il fondo prevenzione da usura e sovraindebitamento. Tutto ciò premesso, cara Deborah, di corsa la borsa. Ma per favore, boh. Vabbè, comunque, arrivederci. Due di Denari. Questa facciata nasconde una vita, ma più di tanto ingannarti non può. Sì, il problema è che in questo paese, come Giuseppe, ci sono decine se non centinaia di persone che non hanno la fortuna però di avere un pezzo di terra, una casa e un'entrata, perché anche andare solo a un'associazione, come ho fatto io, a chiedere aiuto, ti dicono: ce l'hai un lavoro? No, e allora non si può fare nulla. Ora torneremo su questo argomento, vi abbiamo promesso la rubrica ricorrente, oggi andiamo al bonus facciate perché peraltro ce l'avete chiesto in tanti di affrontare questo tema già tardissimo. Mauro, a che punto siamo? Lo possiamo ricominciare sti lavori o no? Allora, li possiamo cominciare, però diciamo con un po' di incertezze. Intanto io ti ho scomodato non uno ma due esperti di valore mondiale. Due ingegneri. Esatto, sono due, come ingegneri dire, della parola, plurimi titolati sulla materia. Allora, innanzitutto, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, do il benvenuto a Francesco Burrelli, che è presidente ANACI, cioè Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari. Benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, a voi. E poi qui in studio invece ci è venuto a trovare, è tornato a trovarci, Cristiano Dell'Oste, autore ieri con Saverio Fossati di una pregiatissima pagina, Bonus facciate in stand-by, cosa fare senza istruzioni. Esatto. Ecco, perché c'è un filino questo problema qua, esatto. No, adesso però abbiamo una notizia che abbiamo prima anticipato in anteprima mondiale, pare, Cristiano, che in settimana arriveranno le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e allora molti dubbi sarebbero chiariti in questo caso. Sì, proprio così, Mauro. Intanto saluto anche tutti gli ascoltatori e l'ingegner Burrelli. Il neo direttore delle Entrate, che poi in realtà è un cavallo di ritorno. Esatto, certo. Ernesto Maria Ruffini. Proprio pochi minuti fa, entrando a un incontro con i professionisti, ha detto: in settimana arriverà la circolare sul bonus facciate. La circolare è il documento delle entrate che deve contenere una serie di istruzioni, perché la norma, così come è scritta, la legge di bilancio, non è chiarissima. Il bonus facciate è in vigore, quindi si applicherà alle spese sostenute già dal 1 di gennaio di quest'anno. Sappiamo che chi ha dei lavori in corso deve pagare con bonifico cosiddetto parlante, quello tipico delle ristrutturazioni edilizie. I punti fermi della norma sulle ristrutturazioni in generale non sono certamente cambiati, esatto, soprattutto sul fronte dei pagamenti. Questo è un punto fermo. Non sappiamo esattamente quali tipologie di lavori, quali tipologie di immobili e in quali zone potranno avere o non avere la detrazione, appunto, sulle facciate, che, lo ricordiamo, è pari al 90%, quindi segna, per così dire, nella storia ormai ventennale delle agevolazioni edilizie, sì, il record massimo, perché è mai la detrazione più generosa. Mai, sì, si era arrivati al 90%, che però va spalmato in 10 anni. È una riduzione di IRPEF, cioè dell'imposta che calcoliamo quando facciamo il 730 o il modello redditi. Esatto. Tanti anni fa quelli diversamente giovani come me lo chiamavano il 740. No, me lo ricordo anche no, io. Te l'ho raccontato io, per quello lo sai, perché sei non troppo giovane per saperlo. No, perché l'ho fatto pure io un paio di volte nella dicevo, vita. Ecco, questa detrazione però è molto, molto consistente. Però in questo momento mi pare di capire, e qui chiamo in causa l'ingegner Burrelli, che in condominio non si sa bene che fare, decidere, deliberare già da subito, perché ovviamente lo sconto è ghiotto, ma anche l'assenza di istruzioni sul punto frena un po', o forse più di un po', Burrelli. Ma intanto è importante che diamo delle informazioni un po' oggettive, perché c'è di tutto e di più su questo. Io ieri ero all'ufficio delle entrate, quindi questa cosa qua, ma anche perché stiamo parlando d'altro, quindi sapevo già che sarebbe uscita questa circolare, però diciamo che alcune cose le sappiamo, e sulla base di questo le delibere si possono prendere, poi magari lasciare in sospeso alcune cose. Per esempio sappiamo che gli intonaci non devono essere superiori, la demolizione degli intonaci non devono essere superiori al 10%, quello che non sappiamo è se quelle perizie va fatta una perizia normale da un ingegnere architetto geometra, oppure vanno asseverate, e in che modo va fatto quel tipo di perizia, quindi quello sarebbe importante saperlo per evitare di fare sempre quelle cose all'italiana. Per esempio un'altra cosa importante da sapere è se sono tutte le facciate, sembrano tutte le facciate esterne, ma tutte le facciate sono anche quelle verso il cortile e frontespizio, sembra di sì, perché lì poi ci sarebbero i cappotti eventualmente che vanno da un'altra parte e non vanno sul bonus facciate, però se non tocco nulla e tocco solo il 10%, anche lì dovrebbero essere comprese. Loro li parlano di superfici opache, quindi non ci sono le finestre e le porte che rientrano sempre nel bonus del 50%, però gli impianti, quindi le gronde, sembra che non ci siano, ma non c'è scritto da nessuna parte, le discese sono impianti relativamente, non c'è niente su tutto quello che invece sono i fili, la roba, tutta quella lì sembra che non siano. Quindi queste istruzioni, ingegnere, dovranno essere estremamente articolate e dettagliate da quelle sì, che sono le vostre aspettative. Certo. Noi comunque li faremo delle interrogazioni poi precise, in modo che tutto quello che ci troviamo nelle varie facciate, è un'occasione importante, come diceva Cristiano giustamente, noi ci siamo trovati anche altre volte insieme, quindi la pensiamo allo stesso modo, quindi è molto importante riuscire a non imbiancare solo queste facciate. Se gli facciamo un restyle un pochettino più attento e ne approfittiamo in questo momento con la professionalità e la competenza, non solo per cercare di fare qualcosina e far vedere che stiamo imbiancando le facciate, ma che stiamo riqualificando le facciate, su questo bonus potrebbe essere importantissimo anche unendolo a qualche altro bonus in molte zone. Ecco, aspetti perché dobbiamo fermarci per le informazioni sulla viabilità, ma proprio prego, anche l'abbinamento con altri eventuali bonus è una delle domande più ricorrenti tra gli ascoltatori che ci hanno scritto. Tutto questo tra pochissimo, perché ora c'è il traffico. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a 2didenari@radio24.it. Due di Denari. E allora naturalmente anche il centralino scalpita, caro Mauro. Io ti farei ascoltare la telefonata che arriva da Ancona. È un po' un raccomandato questo ascoltatore, perché è Ignazio, un ingegnere. Essendo marchigiano, che... certo. No, ma c'è. Ignazio, buongiorno. Deborah, finalmente ti sento, buongiorno a te. È il mio ex professore di chimica. E però è un ingegnere che segue un sacco di lavori ad Ancona. Allora, e ci scrive da tanto tempo perché vuole sapere tutto su questo bonus. Allora, ingegnere Ignazio, ci chieda. Buongiorno. Allora, uno dei quesiti, altre cose ho sentito che già sono state trattate, no? Sì. Uno dei quesiti è questo: se, come c'è questa grande incertezza, se io comincio dei lavori di manutenzione facciate in un condominio e poi ancora il condominio non ha deliberato il tipo di soluzione per recupero che sì, dovrebbe fare, lo possiamo poi inserire in seconda battuta nel momento in cui viene chiarito tutto l'arcano. Sì, allora aspetti, ho una domanda, ma mi rispondo telegraficamente, ma com'era Deborah in chimica? No, bravissima, no, va bene. Ricordo come una delle migliori alunne che io mai ho avuto. Vabbè, niente. Poi infatti faccio la giornalista al sole, allora, 24 ore, potete capire le faccio rispondere. Faccio grazie. Rispondere a lei e a tutti gli ascoltatori con identico dubbio, che non grazie, sono pochi, grazie. Da Cristiano dell'Oste. Sì, diciamo che qui il tema è molto delicato, perché io potrei trovarmi oggi a iniziare un intervento immaginando di avere un certo tipo di agevolazione e poi scoprire dopo che non vi rientro, ma potrei rientrare in un'altra. In questi casi, quello che hanno sempre chiarito le entrate è che dal punto di vista della regolarità del pagamento ai fini fiscali è importante che io effettui un bonifico che fa scattare la ritenuta, quindi un bonifico, come dicevamo prima, parlante, quando sì. vado a saldare i lavori. Ovviamente in condominio è l'amministratore che deve fare questo bonifico, non i singoli condomini che pagano la propria quota. Se poi io ho iniziato, immaginiamo, pensando di avere la detrazione per il cappotto termico ecobonus e scopro in corso d'opera che posso addirittura avere il bonus facciate che è più ricco, l'errore nella causale viene considerato dal fisco, lo è sempre stato considerato così, come un banale errore formale, quindi posso andare poi a rettificare tutto questo direttamente in dichiarazione dei redditi quando vado a imputare la detrazione per l'annualità. È importante una cosa che diceva prima l'ingegner Burrelli, questi lavori di bonus facciate sono sicuramente agevolati la pulitura e la tinteggiatura dell'edificio, quindi l'imbiancatura. Questi sono agevolati anche se fatti su singole abitazioni, quindi anche se fosse una manutenzione ordinaria sulle singole abitazioni, e ovviamente lo sono in condominio. Il problema è che sono dei lavori un po' superficiali, come ricordava giustamente Burrelli. Sarebbe il caso di sfruttare il fatto che si è installato un ponteggio, che si fanno delle spese consistenti anche solo di impianto, per intervenire sulla coibentazione della parete. E in questo caso bisogna però raggiungere determinati requisiti di rendimento termico, quindi fare un cappotto, che potrebbe anche essere un cappotto agevolato al 65% se la casa, la facciata o la zona in cui si trova il fabbricato non hanno l'agevolazione. E quindi ecco perché è importante essere seguiti da un tecnico che sappia impostare correttamente i requisiti minimi di legge dell'intervento. Mi spiegate perché anche Burrelli ha fatto questa precisazione, tu l'hai rimarcata all'inizio, perché è importante questa differenziazione per zone? Allora, il bonus facciate spetta solo per gli edifici che si trovano nelle zone urbanistiche A e B, dice la legge, così come definite dal decreto ministeriale di riferimento del 68. Il problema è che è un decreto molto vecchio e in alcune regioni o in alcuni comuni potrebbero essere in vigore delle classificazioni diverse, quindi bisogna avere poi una sorta di conversione dei valori. Primo punto. Secondo punto, viene agevolata soltanto, dice la legge, la facciata esterna. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho le facciate che danno su un cortile interno, quelle non le agevolo? Questo è uno dei punti che dovrà chiarire la circolare. Questa delle quattro facciate, infatti, è una delle domande, secondo me, è la più gettonata. Sì. Burrelli, qual è la vostra lettura? Ci sono un paio di punti, Cristiano giustamente, come me, ha letto bene la legge, ma oltretutto sono cambiati in molte zone anche i piani regolatori, quindi non vale solo la zona 1 e 2, ma c'è una alta densità, quindi l'alta densità poi dà delle altre indicazioni. Però io faccio un paio di riferimenti precisi che comunque ci danno delle indicazioni, poi cerco di rispondere velocemente a quello che ha detto il professore, anche se questi hanno dato delle cose. Allora, il problema fondamentale è questo. Quando si va a fare quel tipo di intervento, la gente non si accorge ancora che ci sono due cose fondamentali. Gli sgravi fiscali noi li possiamo avere, ma bisogna vedere i titoli autorizzativi dell'intervento che facciamo. Se li dimenticano tutti, attenzione che quando facciamo la pulitura della facciata o facciamo la decorazione della facciata c'è un tipo di autorizzazione. Siccome in quel bonus c'è anche il rifacimento dei balconi, delle ringhiere e anche dei modiglioni che sono parte integrante di quel bonus, quindi quella parte lì non è più una CILA o una CIL, ma è un permesso di costruire magari una scia diversa, quindi bisogna stare attento ai titoli autorizzativi a seconda del tipo di lavoro che facciamo, prima cosa. Seconda cosa, la somma di quello che noi facciamo, dobbiamo vedere molto se siamo in zona 1, 2 o 3, quelle regolamentate in qualche maniera, diciamo l'accelerazione di gravità che c'è al pavimento, zona terremotata in qualche zona, quindi nelle zone che c'è uno sgravio fiscale comunque da un punto di vista. Perché? Perché nel bonus facciata non c'è né sicuramente né cessione del credito né sconto in fattura. Queste sono importanti, vuol dire che noi comunque il 100% lo dobbiamo pagare e poi faccio il 90%. Se noi abbiniamo però il 96, i 96.000 per unità immobiliare e i 40.000 nelle zone sismico per l'Sisma Eco Bonus, sono 136.000 per unità immobiliare più la facciata, noi riusciamo ad avere più il bonus verde, che se facciamo una valutazione attenta è l'occasione buona davvero da far partire un piano Marshall in queste nostre case che sono, che il nostro patrimonio, questo 1.200.000 condomini che ci sono in Italia che davvero hanno bisogno. Quindi l'attenzione e la lettura le va fatta così, non tanto politica e non tanto per dire diamo una pulita alle facciate, perché fra 6 mesi, fra un anno appena finiti, ci troveremo in queste indicazioni. Invece per il fatto di deliberare oggi e avere uno sconto diverso bisogna fare due attenzioni. Allora, un conto è sapere che io sto deliberando e quindi posso avere almeno quello sconto e quindi sono sopra il 50% comunque in tutti i casi, ed eventualmente per questo posso avere il 90%, quindi quell'altro delta. L'altro conto è deliberare così indeterminato, quindi quella delibera potrebbe essere annullata perché è indeterminata, se invece non specifichiamo bene quali sono le cose sulla base delle leggi che abbiamo. Allora, tra l'altro, poi in tutta la rosa, la carrellata di bonus che ha elencato appunto l'ingegner Burrelli, ricordiamo, Cristiano, lo scrivevi forse anche tu ieri sul sito del Sole 24 ore, è stato anche rinnovato il bonus mobili, sì, da quest'anno, certamente. E magari su questo ci facciamo una puntata apposita, così come si renderà sicuramente necessaria non appena avremo la circolare dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulle bonus facciate appunto di cui stiamo parlando questa mattina, perché appunto molti ascoltatori sono in attesa di capirne qualcosa in più, stanno arrivando tante chiamate, per cui direi che si rende necessaria dopo questa prima superficiale, se vogliamo, per quello che sappiamo fino ad ora, carrellata di informazioni. Mauro. Certamente. Allora, io vorrei porti un'ultima cosa, a parte 30 secondi avete. Sì. L'utilizzabilità di più detrazioni, che non ho compreso bene se è possibile immaginare che si possano associare più detrazioni. Sì, questo è un principio collaudato anche qui da parte del fisco, uno stesso intervento dividendo le spese può beneficiare ad esempio in parte del 50% sulle ristrutturazioni ordinarie, in parte del 90% per il bonus facciate. Se vogliamo evitare troppe complicazioni e abbiamo già l'idea che oggi alcune spese possano avere un bonus e altre un altro, facciamoci fare fatture divise e paghiamo separatamente. Grazie Cristiano. Allora, in perfetto orario, salutiamo Cristiano Dell'Oste, salutiamo l'ingegner Francesco Burrelli, presidente di ANACI. Esatto, ma tenetevi domani pronti, perché al più presto vi rimettiamo insieme. Non domani lasciate la città, perché avremo ancora